Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. A partire dal 2009-2010 abbiamo assistito in Italia da un lato a una costante diminuzione della domanda di energia, trend che si è invertito solo negli ultimi mesi, e dall'altro lato c'è stato un forte aumento del contributo delle rinnovabili, che è passato da più o meno, insomma, il 15% da cui partivamo per via degli storici impianti idroelettrici all'attuale 27-28% del mix elettrico, portando così il totale della potenza elettrica installata in Italia a superare largamente i 100 gigawatt, ben più di quanto serva. E così, diciamo, il combinato di sempre più offerta e sempre meno domanda ha fatto sì che molte centrali termoelettriche del paese si siano venute a trovare fuori mercato, e tra queste un certo numero di centrali elettriche dell'Enel per le quali è stata decisa la chiusura. Parliamo di 23 impianti sparsi davvero un po' su tutto il territorio nazionale, per i quali, analogamente a quanto accade, insomma, per molte vestigia del passato industriale, diciamo, ora è necessario trovare un nuovo futuro. Da qui il progetto Future E, di cui parliamo con Carlo Tamburi, che è direttore country di Enel Italia. Buonasera Tamburi. Buonasera a lei. Allora, intanto, quali sono le principali caratteristiche, insomma, di questi impianti di cui avete deciso la chiusura? Ma dunque, questi impianti sono quelli che noi riteniamo non possano avere un futuro di richiamata in servizio. L'eccesso di capacità produttiva e quindi di capacità installata per produrre energia è un fatto conclamato, anche la, diciamo, la scorsa estate con i picchi di calore, quindi con una richiesta del consumo molto elevata e molto superiore agli anni precedenti, questa capacità in eccesso ha dimostrato. Era ancora in eccesso, insomma. Guardi, le do un dato, la capacità installata è di circa 120.000 megawatt e il picco di domanda, sì, mi pare che c'è stato intorno al 15 di luglio, è stato di 59, infatti, un pochino meno di 60. Infatti. E quindi questo conferma. Poi che sia più grande il parco generativo è normale ed è giusto, ma probabilmente il doppio è decisamente troppo. Ecco, queste 23 centrali voi le avete divisi in tre gruppi che in qualche modo identificano anche un possibile futuro per questi impianti. Dunque sì, provo a schematizzare. Intanto questi 23 sono stati scelti sulla base di parametri tecnici che sono riferiti al costo della produzione dell'energia, quindi i più onerosi, sì, quelli più vecchi e quelli anche più inquinanti, diciamo. Questo è il primo aspetto. Poi, per quello che riguarda invece la possibilità di riqualificazione, quindi di destinazione per nuovi usi, in funzione della localizzazione e delle potenzialità di riutilizzo, sono stati divisi in tre cluster che sono abbastanza semplici, che sono quelli dove pensiamo che ci possa essere una riqualificazione di tipo, diciamo, commerciale, immobiliare, una continuazione con modalità e tecniche completamente diverse, parlo di una produzione di energia elettrica marginale, minimale, in termini di energie rinnovabili, biomasse, cose di questo genere, oppure invece altri obiettivi che sono un po' tutti da definire. Ecco, da per definire. Esempio, ecco, se la centrale nasce in mezzo alla città o in periferia, è chiaro che voi potete immaginare delle destinazioni diverse. E qui voi state anche raccogliendo delle idee. Questo è proprio, se vogliamo, il secondo punto particolarmente qualificante, è la metodologia di come noi vogliamo rivalorizzarli e riqualificarli. Quindi abbiamo deciso due cose assolutamente fondamentali e molto semplici. Primo, che tutte le persone che vi lavorano non corrono nessun tipo di problema occupazionale. Secondo, che noi non avremmo né proposto né tantomeno fatto cose contro, diciamo, il territorio, contro gli utilizzatori, contro tutti i portatori di interesse dell'impianto stesso. E quindi abbiamo iniziato a raccontare in maniera molto diretta, molto trasparente, intanto alle istituzioni locali, quindi a chi ospita fisicamente, sì, queste location, poi alle persone che vi lavorano direttamente o nell'indotto, e poi a tutto il tessuto, diciamo, professionale e imprenditoriale, per raccogliere idee, stimoli, suggestioni, proposte, affinché si potessero fare delle nuove cose con il consenso, insomma, della popolazione, possibilmente la partecipazione attiva. È venuta fuori qualche idea? C'è già qualche centrale che ha trovato una destinazione, una nuova vita? Sì, una l'abbiamo già venduta, quindi le centrali le possiamo considerare come 22. Per una seconda, Alessandria, è stato fatto un concorso di idee insieme al Politecnico di Milano e sono stati identificati tre progetti che adesso passeranno alla fase, diciamo, di implementazione. Sulla base di Alessandria faremo un altro concorso di idee a Rossano Calabro, Porto Tolle e Montalto, e in altri due o tre casi abbiamo delle manifestazioni di interesse piuttosto avanzate, piuttosto serie, quindi la macchina si muove. Grazie, grazie Carlo Tamburi. Grazie a lei.